faccio un regalo, ti faccio. Domani salgo e ti porto una cosa. L'indomani mi ha chiamato, mi ha detto, fra, ci sei a casa? Ha detto, io sono a casa. Aspetta che sto venendo. È venuto da questa roba qua. Tanto dice, ce la stava per buttare, babbo. E hai fatto il tempo in tempo a salvarlo, dai, l'hai fatto resuscitare. L'ho tenuto perché non era in frequenza quando l'ho acceso, no? E l'ho tenuto da quando me l'ha portato dal pomeriggio sino all'indomani mattina acceso tutta la notte. Per scaldare il condensatore, io già l'ho caricato. E allora, tutta la notte l'ho tenuto. E poi, piano piano, l'indomani ho preso e ho cominciato a parlare, ho visto che funzionava. E poi, piano piano, le frequenze se ne sono andate tutte a posto. Sicuramente, vabbè, comunque vorrà ritaratto, dai. Se si è spostato un po' vuole taratto. No, il mio è perfetto, non c'ha manco cancellate le scritture, niente, tutto, non c'ha grafi, non c'ha nulla, è perfetto. Capo, vabbè, tu magari è sempre stato dentro casa, messo bene, questo è nuovo come cosa, perché come ha detto, dice, come radio è nuova, non l'ho mai aggiustata, mai niente gli ho fatto, e l'ho comprata io, mi ha detto lui, nuova. Però dice, l'ho tenuta così, l'ho tenuta fuori, poi non l'ho usato più. E di lasciarla ferma si rovinano, anche i potenziometri, cominciano a raschiare, a fare, e stando ferma succede così, perché io l'ho lasciata ferma, c'è stato un periodo che non modulavo più e l'ho lasciata ferma, sono andato a provare i potenziometri di lui se stavano gracchiando, gli ho messo un po' di spray per contatti e si sono ripresi, ma nemmeno smontati, li ho tolto le manopole e da dentro, da davanti, ho spruzzato un po' di spray e è andato a me. Capo, no, qua non gli ho fatto niente di quelle cose lì, qua non gli ho fatto niente, però questa è una bella cosa. Poi gli devo chiedere anche quando vanno se si può mettere una scheda eco a parte dentro, sempre collegata a quel tasto. Sì, si può fare. Perché questa che c'è adesso non mi piace. È questa qua, tu già la conosci tu. Questa qua, com'è? Brutta è? No. Effetto cattedrale. Effetto cattedrale. Infatti, ma a me non mi piace tanto. L'ho sentita, ma non... è meglio mettergli un altro tipo, un altro modello di eco. Guarda, adesso c'è il checco, come va qua? Uguale alla mia deve essere, non l'ho sentita, la mia l'ho sentita, però mi sembra uguale. Sì, è un effetto tipo chiesa. È brutta. Bene, vera, Gavino, e allora? Sto provando a collegare questo apparecchio. Fai. Collega. I colleghi tutti in pensione sono. No, non tutti, io ho colleghi ancora che sono al lavoro, sono più giovani di me. E anche io ne ho, quasi tutti stanno ancora lavorando. Capo, ogni tanto a volte li chiamo io, a volte mi chiamano loro. Cappa. Cioè è bello, quando c'è un buon rapporto è bello, io ce l'ho anche su Facebook, ci mandiamo gli auguri quando c'è il compleanno, eccetera, sempre, siamo sempre in comunicazione. Sì, ma anche io, no, io come rapporto con i colleghi era buono, perché ero già di libreria, quando capita, tu lo sai che sul lavoro, al lavoro qualche diverbio ce l'hai sempre, per un motivo o per l'altro, o perché c'è quello che magari dice facciamolo così, poi lo fai così, lo fai diversamente, e poi magari sbagliamo tutti e due. Poi alla fine siamo sempre insieme. Tu lo sai, con Marco, quante volte mi sono litigato, ma fortemi, e poi sempre amici però. Dall'indomani c'è per gli amici, perché a parte che lavoravamo insieme in coppia e tutto, siamo rimasti sempre amici. Poi Marco c'è un carattere particolare, è molto permaloso. Ma io già lo conosco bene, Io Marco lo conosco più di 30 anni. A me non mi valida più, perché gli ho detto, quando ti chiamo al telefono cerca di rispondere, non mi ha più parlato. Ehi, purtroppo è fatto così, no? Io lo prendo come viene. A volte mi diceva una cosa, me lo guardavo e mi mettevo a ridere. Ridino! Sono accorto, è questo cagnotto! E mi ha detto, quando mai? Lui lo sa che vizio c'ha, che quando tu lo chiami non ti risponde, e a me questo dà molto fastidio, perché se uno non sta facendo qualcosa ti dice già chiamami dopo che sto facendo roba, basta, finito lì, ma lui non rispondeva, capito? Non rispondeva, ha detto che quando lui c'ha problemi non risponde a nessuno. È vero, perché all'inizio quando lui ha cominciato, è andato a casa, l'hanno mandato a casa, mi rispondeva, parlavamo al telefono, poi tutto un colpo è sparito per un anno, non mi rispondeva più al telefono. Poi un giorno, così mi è saltata in testa, ho detto esci che trovo a chiamare a Marco di nuovo, lo chiama e mi ha risposto, e mi ha detto mi fa, sì, la so che è un casinato, non so se è arrivato, va bene, io non voglio sapere che sei tu. Era così per chiamarti, per salutarti, per vedere come stavi, perché visto che stavi un po' male, volevo sapere come stavi. Poi non è soltanto bene, la gamba sempre la stessa, sempre la brutta, che al lavoro non poteva più lavorare lui, non si reggeva neanche in piedi. Sì, già lo so, quel piede non lo muove, lui è stato tutto ricostruito, io che a Marco lo conosce una vita, da quando aveva la Vespa lo conosco, conoscevo il padre, la madre, le sorelle, conoscevo tutti i fratelli, e praticamente frequentavano dove frequentavo io, solo che loro erano con una Vespa, io ero con altra gente, però ci conoscevamo bene, ci vedevamo ogni giorno. Quindi poi ci siamo ritrovati quando lui è venuto a abitare vicino a casa, capito? Ognuno ci siamo visti, da Marco qua abiti, e sì, e abbiamo cominciato a frequentarci di nuovo, capito? Eravamo sempre come fratello e sorella, sempre in casa in pari, sempre veniva a mangiarsi la fene a casa, eravamo sempre insieme, però di colpo ha girato e secondo me aveva un poco di esaurimento. Vabbè, magari gli sono cadute troppe cose addosso, gli sono cadute, purtroppo è da capire. Come lo conosco io, è una brava persona, è molto in gamba. Purtroppo è tutto da vedere, perché noi non ci siamo all'interno suo, però è tutto da vedere tutto quello che gli è venuto addosso, capito? Ma io so tutto di lui, perché lui a me le cose me le diceva, capito? Io lo capisco da una parte, non lo capisco dall'altra, perché se uno c'ha problemi non si deve biagullarsi. Cioè, tutti ne hanno problemi, cercano di risolverli e andare avanti, non è che ti devi buttare giù come fa lui, capito? Lui si butta giù. Sì. Ehi, vabbè. Pazienza. Cosa ci vuoi fare? No, adesso quando lo chiamo già mi risponde subito. Cioè, beh, infatti l'altro un giorno lo chiamate e tu dici ci sentiamo dopo che sono in macchina in città. Va bene, ciao, voglio dire. Sì, lo so. È fatto così, nessuno ha detto che è cattivo, è una persona in gamba, tutto quello che vuole. Noi eravamo molto amici, ma non poco, non beh. Te l'ho detto, eravamo sempre insieme. Però girava così. Anche un'altra volta l'aveva fatto, poi mi ha ciappato e mi ha tutto abbracciato. Già, scusami, questo che lo sono fatto così io, è colpa mia, questo e quell'altro. Se ne è reso conto, capito? Non è vera. Alleluia. Cosa ci vuoi fare? Carino, ancora ragazzendi? Fatto, stavo aspettando che finiva questa ragione per dopo lo copro. Capo, non so se c'hai qualche altra radio accesa oppure sta dicendo ore. No, c'ho un'altra radio accesa, adesso l'ho abbassata. Sta facendo la leccia di buco. Vabbè. Gianni, è tanto. Stanno uomo est. Uomo est. Fra un vago mi tocca portare giù il cane, dai, alle 7. Devo andare a portarlo giù. E poi già l'attacco in macchina, se ci siete, provo quel microfono là, così mi dai un parere tuo. E io già sono qua. Io sono qua, non è un problema. Io per questa settimana non devo proprio uscire, mi devo lavorare domani mattina e poi non va a casa, come dica a casa. E aspetta, per se vuoi andare a farti giù, ci vogliono un fine settimana, ma senza fare, ci vogliono 200 euro. Vai. Avanti, fra. E vabbè. Non è un problema, quelli vanno e vengono, capito? Sì, d'accordo, però sono più quelli che stanno andando che quelli che stanno venendo, mi segui? Perché vai a fare un po' di spesa e non ti bastano 100 euro, cioè compri 4 stupidaggini giornaliere, 50 euro, no, comunque. Ma se poco fa sono andato con mia moglie al Rustino, di sorso. Non avevo pigliato nulla, sono uscito 50 euro, senza pigliare nulla. Qua io ieri sono andato da Ditali, che è lo supermercato della Rona Isa e il discount, no? Ho preso un detersivo, ho preso le arancia, le mele e poi cosa ho preso? Ah, è una mozzarella. Sono arrivato alla cassa a 44 euro. Così è. Tu pensa che io ho preso due casse di latte di birra, quelle piccole, ho preso. Oh, da 30 centesimi che costavano 35, a 49 adesso, quelle lì. Lì ha aumentato un bel. E sta aumentando tutto quanto. Ah no, mi sono dimenticato, ho preso l'olio. L'olio costa 6 euro la bottiglia. Ed è di quello da prezzo, mi si mi che si vuole che costa 3 volte di più. Ma quale però? Quello da friggere? No, olio extravergine. Ah, e quello è così. Anche qua è così. Io meno di 6 euro, invece mi stava dicendo un'amica che è andata alla Conad e l'ha preso 4 euro e qualcosa, 4 euro e 90, una cosa del genere. E il se, con la S inizia, sega, ma per guardare ogni tanto, già ci sono le promozioni, solo che non è che ci puoi fare tutti i negozi per guardare tutte le promozioni. Allora, quindi, non vuole benzina nella negozia all'altro. Purtroppo è così, ragazzi, ci sono stati degli aumenti, ma degli aumenti belli e brutti. Allora lo spiego, conviene anche più andare. Io sto pensando, sto andando al supermercato normale perché, caspita, intanto io ogni martedì trovo l'offerta al produttore Segranai. L'altro giorno ho preso una cassa di birra, ho preso la Rai, l'offerta la Pirulli 89 centesimi, ho preso una cassa e ho risparmiato di più perché una lattina di uno spin viene 49 centesimi, una bottiglia di quello viene 89, però c'è nel triplo. Ah, quelle bottiglie più grandi? Sì, la Peroni. Io non sono un grande bevitore di birra, a me piace il vino rosso, però la Peroni non è una birra scadente, molto meglio delle, a parer mio è meglio delle chiusa. La Peroni mi ricordo quando ero ragazzo, era in voga, si beveva più Peroni. Invece adesso c'è l'inchiusa, ma prima c'era la Peroni, c'era. Sì, positivo, a me per esempio l'inchiusa mi fa bruciare il stomaco, sia l'inchiusa sia che l'Heineken, quindi non la prendo più e sto prendendo la Peroni, la 4 Lupuri o la 3 Lupuri o dai, quella che trovo, e poi se trovo l'offerta prendo una cassa e niente, quando capo. No, ma anche io sono come te, io una birra non è che ne bevo tanto. Però un vino lo bevo tranquillamente, mangiando naturalmente, poi fuori parti non ne tocco. No, io già lo bevo anche bevendo. Ehi! Anche là sei, pensavi lui. Avanti via. Franco, tu considera che io adesso, no? Per me la rustica di sabato e mezzogiorno è sacra, quindi io domani, rientrando da lavoro, passo in macelleria e prendo tre capuculli, tre pancette, un giro di salsiccione, gli hamburger, e siamo io, mia moglie e mia figlia, no? Arrivo a casa a mezzogiorno, metto a fare il carbone, all'1:30 stiamo pranzando, mi migolo e io sono l'altro, e sto bene così. E quando sto arrostendo una cosa, voi non te ne bevi 1 o 2 litri di vino? Ah, se arrostendo te lo bevi, non è? Cerchi di berne di meno, però non perché che te ne avanti, perché uno come me non è che può bere tanto, non può bere specialmente il vino, perché il vino non me l'ha proibito, però quasi, però mangiando io 1 o 2 bicchieri a volte parte anche la mezza bottiglia. Sì, ebbene, no vabbè, io non bevo il vino bianco, io non bevo il vino bianco perché, non lo posso bere, però il vino rosso già, qualche mattotta già me la prendo. Capo, anche a me piace molto il rosso, bianco lo bevo lo stesso, il bianco me lo bevo, mi piace berlo quando c'ho pesce, roba così, capito? E basta, poi il resto, infatti ne ho tre casse di vino bianco, e piano piano stanno sparendo, perché quando cucino pesce oppure altra roba, oppure queste cose così, allora mi bevo bianco, a posto del rosso. Sì, no vabbè, io il bianco no, io il bianco non lo bevo, ma non perché non mi piace, ma perché mi fa male. E niente. Sto usando sempre quello di BP4, Fra? Sì, quello lì l'ho lasciato. Allora, guarda, parecchio sta scaldando. Sei un po', un po' forte, un po'... la stanno un po' a strappare. Ok, questo quando me lo dite mi fa piacere. Allora, siccome all'inizio io avevo il mitigain della radio a 5, però adesso gliel'ho aumentata e ho abbassato a 4 il coso, vedi? Adesso vedi a vedere così com'è, adesso vedi com'è adesso, se è migliorato oppure devo ancora abbassare. Ma è rimasto invariato, forse perché siamo vicini, Fra, è rimasto invariato. Provo a abbassare un po' il microfono, appena il microfono. Esatto, il microfono avevo abbassato. Guarda, adesso ce l'ho uno, ce l'ho il microfono. Ok, guarda, è molto chiara. Provo a alzare la radio, provo a alzare il microfono dalla radio. No, quello ce l'ho al massimo adesso. Allora, adesso faccio come poco fa, guardami. Allora, a 5 e a 5 il Mickey Gain della radio. Ok, vedi a vedere così com'è? Perfetto Franco, metà Mickey Gain del microfono e metà della radio, guarda, sì, una bomba. Molto chiara, se vuoi essere un po' più combattivo, alza, mai metti a secolo della radio e sei alla grande. Ok, a sei quello della radio. Per me va bene così, Fra. Ehi, capo, siete voi che me lo dovete dire, perché se no io non riesco a capirlo. Avanti Gianni, che sì. Ma Gianni ci deve essere allontanato. Positivo, sì, si allontana. No, io Fra... Se nessuno non ti offende, io te lo dico quando magari uno va in saturazione, lo dico sempre. Poi piace anche a me quando c'è qualcosa che non va che mi venga detto, perché siamo in radio anche per passione. uscire bene, e per uscire bene a me la distorsione, queste cose qua non vanno. Capo, no, ma neanche a me, cioè, se uno mi vede che sto uscendo male e non mi dice niente, continuo a uscire male, che io non mi accorgo, capito? Niente, e poi c'ho il microfono, io sono seduto nella sedia e sono a 60 centimetri dal microfono. No, positivo, positivo, positivo. No, per me adesso va, per me va bene, Franco, per me va bene. Capo. Io queste modifiche ce le avevo già in questo microfono, ce le avevo. Ce le avevo tolte. Perché una volta uno mi aveva detto, dice che stavo mercando, facendo, se va a fare tutto. Le avevo tolte e dopo mi ha detto che stavo uscendo bene. Però non mi è più interessato poi di farlo, capito? Adesso stavo parlando lui e mi sono messo stamattina, ieri cosa ti ho detto? Domani me lo faccio. È positivo, sì, no, ma va meglio. Fra, basta, metti a 5 il machine della radio. A 5, quello della radio. E a 5 c'ho anche il microfono. Positivo. Dovrebbe andare meglio, eh? Capo, va bene. Io con tutte le radio che ho, ma come mi sono messo sempre a modulare, non mi hanno detto mai niente, vuol dire che c'è bene. Sì, e beh, come dicono che l'ICOM non va bene in 27, questa qua bene sta andando, guarda. Capita se va bene, sì, diciamo che l'ICOM, quella è magari una radio un po' datata, così è. Ah, no, è una radio analogica, però è il 737, guardalo su internet, si chiama IC737, la KF. Sì, l'ho guardato l'altro giorno, lo stavo guardando, l'ho visto, non è brutto, bellino è. È grande come radio, è bella presente, non ha niente a che vedere in ricezione, questa qua non ha niente a che vedere con il Kinfood, questa è in ricezione, è assurda, è fantastica, è una cosa allucinante, fra, sembra un hi-fi. Capo, un giorno, allora c'avevo il K, stavo modulando con K, stavo modulando, e c'avevo il presidente Lincoln, c'avevo a fianco, e c'avevo le amiche che stavano attaccate. Ho cambiato radio e non se ne posso nessuno. Anche Lincoln è bello, anche il presidente Lincoln è bello, sì. Io tempo fa, quando ti ricordi, quando avevo il locale a Porto Torres, lo stavo prendendo, però vabbè, anche il padrone non lo sapeva perché era un po' di tempo fermo questa radio, lo stavo prendendo e è stato acceso, l'abbiamo acceso assieme, meno male, è durato 10 minuti acceso e poi sono partiti i finali, era un po' di tempo fermo. Magari è modulato subito, è modulato. E se c'è tutto tempo fermo i finali sono più ricolosi quando lo accendo. No, l'ha fatto tutto lui, io già non ho fatto niente. Capo, perché io questa la radio era anni, era più o meno dal 2000 senza accendere, è dentro un garage, mi sta sentita con un capolone. E quando l'ho appena portata, l'ho accesa e non ho messo neanche il microfono, l'ho lasciata dal pomeriggio fino all'indomani mattina, l'ho lasciata sempre accesa per caricarsi i condensatori e queste cose. Poi l'indomani ho messo il microfono, sono entrato e la radio è andata bene. Sì, e beh, vanno, sì, va, addirittura andrebbe accesa piano piano anche. Diciamo con regolatore di tensione, di voltaggio, come si chiama, e così la riprendi proprio bene. Diciamo che sono radio che sono eterne, sono radio eterne, radio fatte da altri tempi, radio fatte per durare. Logicamente una cosa del genere la puoi fare con le radio di oggi, con queste che stanno facendo nuove, non lo puoi fare. Ma assolutamente. Ci sono le radio adesso, quella radio nuova che stanno facendo, portano una marca di studi da 200, ma c'è prestato a 300 euro e poi alla fine c'hanno le stesse cose che c'è questo, c'ha, e ti dura di meno perché sono tutte fatte per fare soldi e basta, quelli sono fatti. Sì, infatti sono d'accordo. Poi in una stazione base, diciamo che un Saturneco è sempre bello da vedere, No, non c'è storia. Io avendo la possibilità se ne trovo uno buono, ma deve essere buono, non mai toccato, mai fatto, io uno lo prendo. Perché se devi lontanare da quella radio è la fine del mondo, non ce n'è. Guarda, è che non so, se l'avrei mandata a vedere come ce l'ho posizionata. Io vabbè, non è che poi io te lo mando il mio numero, non ho problemi di niente. No, sì, lo devo mandare qua. Ma ci sei in Facebook? No, al limite quando cambi ce l'ha tu. Sì. Sì, quando ne tragiate lo faccio mandare da Gianni, dai, glielo dici tu. No, glielo puoi dire anche tu, mandami il numero di Gavino in privato e me lo mandi. Fui Giulia. Ma tu non ne hai Turner? Ma ne ho uno, però l'ho dato un amico per aggiustarlo perché era troppo poco, un trafitto, qui non l'ho provato niente da più tanto, questo lì non l'ho provato. E poi questo amico è partito a lavorare e è rimasto là. Ne ho uno, quello grigio. Bello, ecco il più 3, il Turner più 3, quello grigio, l'originale diciamo, là, quello proprio Turner più 3. Sì, quello lì. Quello l'abbiamo comprato, usato, ma usato nuovo, era un nuovo nuovo. Poi se ho colpo, o in qualche troppo disturbile, qualcosa me la bruciata. Deve può darsi anche la batteria, ma qualche batteria anche, uiuia. Un attimo. Ehi, siamo qua già. No, era per avvisarvi che ero al telefono, scusate, ma mi hanno chiamato al telefono. E io adesso sto andando, dai. E ci sentiamo dopo dalla macchina, se ci sei, capito? Sì, tranquillo, non ti devi scusare, quando uno manca è perché deve fare cosa, io lo do per scontato. Non c'è problema. Mi siete per il resto, dai, quando fai chiamate sono qua, mi prendi Franco. Ehi capo, glielo ascolteremo dalla macchina. Oh Gianni, Lara, quando c'hai 5 minuti mandami il numero di Gabino. Ma tu non ce l'ho il numero io. Io ho squacciato, però lo togliamo con quelci per vedere se sento a Gianni dopo. No, guarda, tranquillo, lo puoi lasciare benissimo perché arriva qua, a me mi arriva 9 più 20, 9 più 30, quindi ti arriva ancora più forte. No, non ci sono problemi per quello, ho provato ieri sera fra, diciamo quando è arrivato a destinazione e si è fermato da 9 più 30 fisso qua da me e credo che in linea radia sarà stato 10-12 km da me, quindi a te ti arriva la grande. No Gavi, mi arriva più basso di te Gianni qua. Gianni, per arrivare qua deve superare una montagnetta. Ma in macchina? Ma anche da casa a te, quanto ti arriva? Io qua Gianni mi arriva 9.25 fisso mi arriva. E qua mi arriva 9, mi arriva. E sono più nascosto io per Gianni. Ma ho capito, non lo so io dove abiti tu, fra. Quindi non posso, non lo so. Però arriva molto bene dalla macchina, non ci sono problemi, ha preso quel tantennino e va molto meglio, della Turbo 2001. Capo. Sì, no, vabbè, Gianni si è riuscito bene, quando c'aveva l'altra macchina, che stava lavorando ancora, usciva una carrellata, usciva con quella macchina lì, aveva l'antenna centrocapponta. Sì, ebbè, poi avevamo anche la radio buona. Ma tu di poli non ne hai nel tetto, sul tetto? Di che cosa, scusa? Di poli, antenne filari, non ne hai sul tetto? No, non ne ho. Filari non ne ho, c'ho solo la mano. un'antenna per ascoltare un ricevitore, vuoi una cosa radioamatoriale, dai. No, positivo, positivo. Poi me ne ho costruito una da poco, cioè da poco sarà un mese, poi ne ho preso un'altra a filare originale. E... allora, quello che ho costruito posso anche trasmettere, fa... ed è una long live, l'ho, diciamo, ripiegata, poi invertita, appunto al traliccio, poi quando mi giri tu lo ti mando le fotografie dell'impianto d'antenna, del mio parco antenne. Ed è assurda, posso trasmettere, ho uno e uno in tutto, cioè ho fatto un ballo, un bel ballo con col toroide, un ballo 9 a 1 con un motore di admin, quelli diciamo 0,30, ma guarda, perché l'ho provata lunga, l'ho provata diciamo orizzontale, era un po' alta distazionale, invece così ho trovato un accordo, deve essere con l'angolo che gli ho fatto, ed guarda, è spettacolare, in ascolto mi arrivano, diciamo in HF, sui 40 metri mi arrivano 9,30, 9,40, pieni. Ecco, no, io ce l'avevo una, un'invertita qua, sempre autocostruita, e poi non so come cavolo è andato, e si è frantumata la scatola, si è frantumata, dal vento e tutto, l'ho trovata per terra, l'ho trovata, e la giorno non li ho messo più, non li ho messo. Però, ma non ho più, ho comprato anche le scatole per rifarla e non le ho più fatte, non lascio passare, non me lo prendo. A parte che ho troppo poco per metterla, perché non c'ho spazio per mettere i filari lunghi, capito? Sì, ho capito, ho capito, ho capito. Sarebbe bello qua, io... sarebbe bello riuscire a mettere una bella direttiva a quattro elementi, a sparare forte in propagazione, quella già sarebbe bella. Capo, quella sì, io guarda ti dico una cosa, è che non la metto perché si vede troppo, si vede qua, come città, e no, la via pigliata e la via brutta. Ho preso il rotore e poi quella dell'intima 27. Io dico che sarebbe uscita meglio dall'antenna. Beh, per forza, per forza. Però puoi evitare, se la direttiva poi deve solo pelusi, diciamo direzionali e arrivi bene. Quello è per fare mai qualche DX, qualche collegamento, però ci deve aiutare santa propagazione, perché altrimenti puoi mettere direttiva che vuoi, amplificatore che vuoi, da lì non si scappa. Capo. Lì io è che sono qua, specializzato in campagna, un punto un po' chiuso, avessi la via piazzata, ci avrei messo la direttiva e la manta qua sopra, ci avrei messo. Io dico che è abbassato per sempre. E anche io volevo fare così, perché io ho il traliccio, capito? Io ho l'antenna sul traliccio. Mettere la direttiva sopra il traliccio dove c'è la graziuli adesso, e poi allungare e mettere la graziuli sopra la direttiva. Però caspita, è un travaglio, queste cose me le faccio da solo e sai, è un po' un casino fra giovane quanto vuoi, però è sempre una cosa che devi stare, devo avere tempo e niente. Ma traliccio ne ho a voglia, traliccio che c'è in alluminio, adesso vediamo un pochino se riesco a farmi un basamento di cemento qua a fianco a casa e sollevarla almeno 18 metri col traliccio 40x40, la porto 18 metri a terra e vediamo un po' cosa ne esce, dai, vediamo un po' cosa ne esce, però tempo permettendo anche denaro. Perché che c'hai il terreno e puoi fare un print, una cosa del genere lo puoi fare, poi metti tirante, gli uniti, lì lo puoi fare, per saltare lì, per saltare i tubi sia al tetto o affiancato del muro, è un'altra cosa, quello lì. Quella lì c'è tutto molto. Sì. Però dai, ognuno anche a casa, fra quando ho iniziato io avevo sto per tetto di un altro appartamento, avevo chiesto l'autorizzazione, avevo chiesto cose, mi avevano fatta mettere, poi avevano girato di testa perché si sentiva che quando faceva vento fischiava, vedevano questa roba sul tetto e vabbè, alla fine l'avevo tolta e cicce. Lì, e poi lì a Pomotorre, cioè, lì, anche dove ce la vivi tu, mi ricordo, lì tirava, quando tirava il vento, lì era forte. Sì, di lì toccarono tutti i venti possibili e immaginabili, fra. Ma guarda, era anche, poi era anche una responsabilità stare a prendere, a fare, la notte quando c'era vento, lo sai, la notte abbiamo passato chiuso in quel locale tentando l'antenna, poi. Io guarda qua, l'unica antenna che mi è andata giù, l'ultimo venti che ho fatto, qui fuori, guarda, è quella della VEU, quella lì mi è andata giù. E la nuova antenna, il palo si è piegato, l'ho messo un palo di quelli che ho comprato da Bricomen per mettere le antenne del televisore. E adesso l'ho messa più in basso con un tubo più rotto. E dice, c'è messo più giù. Sì, no, ma già non c'è, se li metti un bel tubo. Oh, se ti serve il tubo, vedi, te lo prendi, te lo carichi, te lo, io tubo innocenti ne ho tanto qua, ne ho tanto, perché quando faccio i lavori che sono buttati mi riprendo, avrò da lavare giù un'ottantina di tubi innocenti. Perché l'avevo preso per la recinzione, ma alla fine ho comprato i paletti, ho fatto la recinzione muretta a seghe, i muretti, i blocchetti e niente, lo lascio così, ma voglia tu mi dici, so, se ti servono, vieni, te li prendi due, tanto sono da 4 metri, c'ho anche le giunzioni, non c'è problema. Oh, Gabi, e cosa me ne faccio? Come tu mi sono... è uno da 6 metri e ho zingato, e anche zingato che me l'ha regalato un muratore che è qua a fianco a me l'ha regalato, perché gli ho visti che l'ha scaricati dal camion per portarli a qualche impresa, quello, nel suo cantiere, no? E io ho chiesto uno, mi ha detto, cioè, come non me lo dai? A pagare, mi ha detto, non è che lo voglio gratis, sino uno di quei tubi zingati. Lei dicono, portatelo via, se no dice, sale mio figlio, dice che deve portare i cantieri. Papà, come ti mi ha detto, non mi ha fatto di due luci. E io prima me ne ha alzato. Capita. Intanto lo cuociano i bogari, questi tubi. Intanto lo cuociano i bogura. No, è fatto bene. No, vabbè, io se ce li ho non mi interessa, io addirittura ho uno scatolato qua, che l'ho preso e l'avevo recuperato apposta perché un domani mi metterò la direttiva e quindi uno scatolato che addirittura gli ho fatto già le cerniere e gli ho messo il velicello a mano, già fatto, è già pronto con la zanca a terra 60x60, già fatto i buchi pericolosi e va pronto. Ha detto di no, mi pongo qua e gli metto la direttiva. Chi ci ha fatto la direttiva? Ce l'ho pronto, è scatolato 160x160, non è piccolo, è zingato anche quello, schedulato da 2,5 mm, quindi è plumbizzanti, e quello domani sarà pronto, ma mi piace più in traliccio, mi segue, mi piace più in traliccio. Cappa, traliccio è un'altra storia. No, questo io già va bene, non ho pretese di portarlo su come una volta, io... Prima nel 79, 80, 80, 85, avevo due pali da 6 metri, avevo uno dentro l'altro, tutti innocenti, e c'avevo sul tetto, che li avevo 12 metri di palo c'avevo, ma Alghero, ascoltavo Alghero come ascoltare a Temi, a volta avevo coprivo tutto e gli ascoltavo tutti con un segnale di 9.20, 9.25, 9.10, capito? Tanto lo ascoltavo tutto, gli ascoltavo. E solo che adesso non lo faccio più, quello è un messo 6 metri in meno. E vabbè, diciamo che adesso l'area è anche sporca, l'area è anche sporca, quindi quello che si faceva prima adesso non lo fai più. Adesso non lo fai più, bravo. Io quegli anni non li ho conosciuta, non l'ho conosciuta la CB, però a quanto mi raccontano e a quanto mi sto accorgendo, perché io mi accorgo anche in base al QRM che c'è, l'aria è sporca, queste scie che mollano, quello è tutto quanto inquinamento o inquinamento, inquinamento che va sulle onde elettromagnetiche. Capo, sì, quello sì, prima era tutto diverso, certo. Qui allora c'era un altro amico qua a fianco a me, Pietro, povero Pietro, braccio di ferro, si chiamava niente questo, ma anche lui era, usciva forte, vabbè, lui aveva anche il 2001 mi sembra che ci aveva, il 2001, vabbè, era una, usciva fortissimo. Sì, beh, poi quando c'hai un amplificatore del genere, quando c'è amplificatori così, esci bene, non ci sono problemi. Ma lo sai cos'è, Fra? Che avere un amplificatore, diciamo, sì, gli amplificatori sono belli, ma averlo adesso, cioè non risolve nulla, perché è inutile che tu magari hai... A me piacciono, attenzione, a me gli amplificatori grossi piacciono, perché piacciono, sono appassionato e tessuto di capo quando li vengo e ciccia. Però alla fine non ne fai niente. Alla fine non ne fai niente perché quando in propagazione, dove arrivi con 1000 watt arrivi con 30, mi sembra. Sì, ma è così, guarda, io ti dico una cosa, io lineari grossi non ne ho mai avuto, non me ne ho mai comprato, non mi è mai interessato di comprarmi un lineare grosso. Una volta mi è saltato in testa e ho visto questo lineare di 231 vendendo da Cagliari. Ho chiamato, c'era il numero di telefono, l'ho chiamato e me l'ha spedito. Me l'ha spedito, l'ho comprato, è il nuovo numero. E funziona alla perfezione, funziona. Non me ne sono pentito di averlo comprato. Poi alla fine, all'inizio l'ho usato un po', poi alla fine ho detto ma che diavolo ne faccio a fare? Quasi quasi arrivo con lo stesso segnale. Primo, no, lascia perdere, dammi, ecco, quello ti dà 100 watt, che non te li dà neanche lì 100 watt. Beh, alla radio ti deve anche, ti aumenta un pochino la radio, dai, già è lineare, già è efficiente, sul lineare valvolare è già efficiente. Logicamente sì, per qua non ne vale la pena, perché una volta che qua arrivi 9.20, 9.10, 9.15, è fatto. Meno che non vuoi dare fastidio a qualcuno, non vuoi rompere le scatole a qualcuno, inizia a mettere portanti, come spesso si fa. Come spesso stanno facendo, perché magari hanno qualche lineare da 200-300 watt valvolare, fanno queste cose qua anche, però noi parliamo lo stesso, Fra. A me già piace vederli, perché il lineare da vedere è fantastico, è molto bello, ti riempi l'occhio, poi io ce l'avevo un lineare grosso, era quello, me l'aveva dato lo stesso un relatore che c'è qua, un amico, ed era grosso come lineare, dava 700 watt in AM, ti ricordi quello che aveva al circolo, ed era un bel amarazzo. Capo, sì. E vabbè, mettere portante, cosa non metti a fare la portante? Non risolvi niente mettendo la portante. Se uno c'ha qualcosa da dire, chiama e gli dice guarda tu mi hai guardato lì, tu basta, senza ieri né brielle, né apparatori, né nulla, o utilizzi le cose facce e basta, se ne vieni in giro. Sì, ma infatti, vabbè, non è un problema, ma non è che lo fanno a me, però si sente che stai parlando e si va, e si va, e si va. Caspita, l'altro giorno ho comprato questi capicorda, li ho presi da, li ho presi su Amazon, mi sono arrivati, sono un capicorda, vabbè, occhiello, il rame, ed è anche il rame buono, 30 ampere, e sono veramente belli, fra. Ma la sera me ne ho visto capicorda Billy, e anche, mi sembra che ce ne sono, o anche il ramo ce ne sono. Hai visto quel negozio tipo cinese, tipo cinese nuovo che hanno aperto, dopo, dietro la Pricome, sopra? Sì, positivo, ce l'hanno anche lì? Sono andato lì un giorno, e ho visto che c'ha... una gamma sufficiente, caspita, ce n'è tanta di roba, ce n'è. E ho visto anche questi capicorda così, ce ne sono piccoli, grossi, grandi, per capo grosso. E già si stanno attrezzando già. Sono belli attrezzati, ma tutti i cinesi si stanno attrezzando. Solo che roba elettronica non bisogna prendere, caspita, è un casino. È un casino, compri le ciabatte, ti fanno pigliare il fuoco, non fa, perché poi da loro le paghi 3 euro e magari alla Elcom che ti dà quelle bidicine le paghi 7 euro, ma magari sono, cioè, io per 3 euro in più, non che c'è la differenza di 50 euro, ma per 3, anche per 3, per 5 euro, per 10 euro, io vado in un negozio, non, diciamo qualificato, vado dai cinesi, non lo so, io la vedo così. Ma io ti dico una cosa, guarda, io ho preso, quando l'anno scorso, ho preso 3, e le ho prese tutte e tre da piccole, le ho prese, e su tre ne si è incendiata una, ha cominciato a uscire pure, ha girato, dopo ho caduto, e le ho ricambiate. E le ho prese dai cinesi, le ho prese, uguali identiche, sono uguali, Bricome, i cinesi sono uguali identiche. Sì, ma infatti da Bricome non bisogna comprare roba elettrica, capito? In quei negozi di roba elettrica non bisogna comprare, la roba elettrica bisogna comprare Miticino. Ma là è compri la roba buona e dura, perché io per lavoro le compro queste cose, la ciabatte, poi, ma vado là e con, guarda, anche quelle a 3, no, io cioè, compro quelle a 3, perché in genere quelle ciabatte lì poi cariche ti generano per 3 kW e mezzo, ma non è così. Massimo le puoi mettere, io li carico massimo 2 kW, 1 kW e mezzo, e quando usi utenze che sono 350 watt l'una ti è arrivato. Però è capitato anche di mettere alla prova con 3 fari da 1000 e hanno tenuto benissimo, logicamente non te la devi cercare, perché non è poi già 24 ore con 3 kW attaccati, ma all'indigenza ti puoi fidare, mi segui? Sì, quello sì. Io guarda, ho tutto attaccato, c'ho tutto, a parte che ho un convertitore di corrente, c'ho un stabilizzatore di corrente, e c'ho tutto collegato lì, per tenermi la corrente stabile. E lì ci ho attaccato due ciabatte, ci ho attaccato, e c'ho computer, c'ho radio, c'ho l'alimentatore, tutto c'ho, stampante, tutto collegato lì. E guarda, ed è una, anche il televisore c'ho attaccato, eppure queste stanno tenendo perfette solo, perché una non è della di Bricome, è di Ginevra, della Cedira Elfo, diciamo, l'altra invece è cinese. Sì, no, vabbè, io le ciabatte cinesi no, fra, guarda, proprio non mi fido, perché non ti danno, cioè, anche se tu guardi il rame che c'è dentro, tu apri una ciabatta dei cinesi, quelle coperte dei cinesi, la Bricome, e guarda il rame che c'è, che conduce. non viene, è tutto burocratica. Mentre la Vedabri come si possono prendere, si potrebbero prendere su quelle che sono senza filo elettrico, che glielo vedi tu, in modo che, perché l'ho provato io una di quelle a due uscite e aveva dentro, aveva diciamo il circuito della ciabatta, le lamelle, erano belle, diciamo era una cosa fatta bene. Quindi una di quelle l'ho provata, solo qua a casa è l'utenza che c'ho qui, che diciamo del digitale, diciamo della televisione, del bugia, cioè la televisione attaccata e il surround, la tiene bene, però gli ho messo il cavo da 2 metri. Ecco, la volta che l'ho fatto io qual è? Non mi ho portato. Da quando lavoravo da Leni che non me ne ho portato, quel gruppo che c'era da 36 fine potevi attaccare, tutto roba industriale, e poi alla fine ce ne hanno buttati, alla Mondetta ce ne hanno buttati, e ho detto ma non mi servivano, allora non mi servivano. Oggi mi era servito, mi aveva attaccato a muro, mi aveva attaccato in opera, un bianco, avevi chi lo ribrucino. Oh, ci sono quei gruppi di continuità che fanno paura, fra, sono belli, quelli mi sembra che erano gruppi di continuità, che erano 8 kW o 10 kW potevano ottenere, perché erano 380, principalmente avevano l'ingresso a 380, poi con le fasi, ma erano gruppi di 8 o 10 kW se non mi ricordo male. Sì, roba grossa era, roba industriale proprio, roba che agganciavano motori russi, agganciavano lì, roba grossa. E io l'errore che ho fatto non me ne ho portato uno, perché la punta di la 380 non sai che la puoi convertire. E caspita, dopo me ne sono pentito. Me ne sono pentito già da quando ho cominciato a bruciare qualche ciabatta qua. Sì, beh, per forza, poi quelle cose bisogna sempre portarle via. Quando capitano bisogna sempre portarle via, perché servono sempre. Ascolta, ma tu hai, per esempio, io dietro ogni radio gli ho messo il filo di terra e sono collegate a terra, con la massa a terra esterna alle radio, cioè sia quella della corrente domestica, la terra della linea. E poi gli ho messo la terra collegata a punticellata dietro ogni radio e ogni apparecchio, che ho anche alimentatori, gliel'è fatta questa cosa qui. No, negativo, non c'ho neanche una radio fatta così, c'ho solo la massa terra della linea di casa e basta, e c'ho il picchetto nel cortile fuori, c'ho collegato lì e basta. Poi quello che sta dicendo tu non glielo fa. E io gliel'ho fatto, non ho, anche le antenne mi ho messo a terra io, col filo da col cavo da 12, e non sentivo i 3-2, ho ponticellato tutti i tubi, i tralicci delle antenne e l'ho portato al picchetto a terra insieme alla radio. Dicono che non si fa, ma io l'ho fatto. Ciccia. Io lo volevo fare, allora sai dopo, fuori in terrazza qua con un vasetto farlo, però ho detto ma un vasetto, il vasetto non fa niente, cosa fa un vasetto? Non ce n'è tanto terriccio. Cosa succede? Mi copri? Sì, adesso sì. Sicuramente mi ha mollato il look. Ti metti una piastra a muro, ti metti una piastra a muro con un galletto e ti fai i punti della, come si dice, della terra, delle radio, e meglio di niente, mi segui, fra. Sì. Ma te una volta cosa non l'ho fatto, ma questo tanti anni fa, avevo un rubinetto nel cortile, ho preso, ho agganciato l'antenna, l'ho avvitata all'antenna, un cavo di massa, e l'ho legato al rubinetto. E poi a parte che mi ha distrutto l'antenna, la mattova 1 era quella. Oh, un rubinetto, cosa mi ha fatto? Mi è dubbi di com'è la tatuaggio della faccia? A me, lui, infatti la gente no, non ne posso più, infatti non l'ho fatto più. Lascia perdere. Capita, sta ragazza la vendita dei denti ti mette la bocca. Cavolo, rubinetto del cortile, quelli d'ottone. Niente me l'ha fatto, niente me l'ha fatto. E l'antenna, la mantova, la spirale. Grazie, la figlia. Oh, Giulia, noi ridimo, però guarda che è pericoloso veramente. Perché è pericoloso veramente, poi con tutto un pessimo sul tubo, sul progetto attaccato al tubo della casa, diciamo che è all'utenza che è in casa domestica. Tutto conduce, è da dove mi legge, sta vendendo la doccia, sta capendo il prezzo. Non credo io. Stai a fate la ramuta giusto, no, lo saranno, lascia perdere. E infatti adesso sono libero, sto solo la massa terra e basta della casa, del fatto. Resto, tutto normale. La massa terra di Chiamalina non la attacco più, non è un anche se da poco mi ha, vabbè, l'anno scorso mi ha bruciato un alimentatore, una radio, l'ho bruciato, un baracchino là, e non me ne ha più lunga. Ma sempre fulmine, fra? Sempre fulmine o qualche scarica elettrica che è arrivata dalla linea? Ma sicuramente qualche scarica elettrica, oppure qualche fulmine. Eppure stacco le antenne io, stacco quando c'è temporale, no? Sì, anche io le stacco. Però mi dimentico sempre di staccare l'antenna al ricevitore. Mi dimentico sempre di staccare quella, porca miseria, mi devo aumentare. Io ogni notte le stacco e non solo, io ogni notte prendo ho il commutatore e stacco proprio l'antenna, il cavo dal commutatore. Stacco proprio il cavo dal commutatore e spengo sempre la ciabatta e stacco le spine, le stacco la spina. Però, caspita, per esempio quando c'è vento l'antenna accumula scariche e carica elettrostatiche, mi segui. Bisogna ricordarsi di prenderla, farla scaricare con un cacciavite, prima attaccarla alle radio, perché quelle scariche lì sono importanti, possono fare creare anche danno all'antenna, alla radio, scusa. Ecco, sì. Ma il problema lo sai cos'è? Io oltre che stacco le antenne, mi stacco anche la corrente, mi stacco. Perché io sono convinto che quell'alimentatore, quella radio me l'ha bruciata dalla cosa della corrente, dalla spina. Allora, l'altro giorno qua a casa vedevo, ero in garage, di mattina presto mi stavo caricando dall'attrezzatura di lavoro e la verità era ancora buio, mi stavo caricando l'attrezzatura di lavoro e vedevo, a un certo punto ho visto quella luce che si è abbassata, ha giocato un bug, chi c'ha visto un lampione, che questa luce LED sta andando a morire, cioè svanita. E faccio quello che devo fare, un pochino al buio, entro dentro casa, accendo la luce della sala e la vedevo bassa. Agito, no, qua c'è qualcosa che non va. Spengo la luce, attacco la macchinetta del caffè, non partiva, non va, non andava. Bassa tensione, fra, c'era bassa tensione e infatti ho spento tutto, ho staccato la spina della stufa pure. E mi ha cantato la posta, scendo dal cancello, ho trovato il mio vicino e mi ha detto: Gabino, ma hai notato qualcosa della corrente? Ho detto: sì, Andrea, ho notato che c'era, diciamo, bassa tensione. Sì, c'è bassa tensione, mi raccomando, stacca di tutto perché è un problema. Infatti...